Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone e alle riprese video Valeria. Ed è venerdì 23 dicembre 2016. E il lieto evento si avvicina. Siamo online tutti, sì, ci possiamo sentire. Che dire, Shabalon. 23 dicembre, l'hai già detto, Enzo e Marcello. Puntata. Grandissimo, Enzo, perché stasera parliamo di uno degli argomenti che ci piace di più e che ci vede sempre più coinvolti. Ma dopo. E nel quale argomento, fammela dire perché non la so preparata, possiamo dire veramente la nostra perché siamo dei grandi. Scusa, prego. Come sapete chi ci segue ormai da per 11 puntate, quando sentite questo cicalio... Vuol dire che è arrivato e voi un messaggio. Bambini non capite male, si parla del suono. Amico, amico Francesco Botti, ciao Enzo, per favore, lo sai, devi avere pazienza con me. E anche Vasco Agnelli ha preso già parte, grazie. Bene, ragazzi, benvenuti. Condividete, benvenuti a tutti noi, tutti quelli che si uniranno alla diretta, noi li salutiamo uno a uno. Forse era per il cappellino, ma d'altronde è Natale in qualche modo. Pensate alla Befana come si vestirà Enzo. Sì, dobbiamo ringraziarvi perché... Per dire, lo spot di ieri, ecco, meraviglioso, che dove è stato Marcello ci tiene a dire che aveva una pancia. Ecco, questo è importante perché quella che sembra a prima vista una pancia reale, in realtà era un cuscino che io mi sono coltivato per anni, voglio dire, per farlo, farlo diventare così. Ecco, se però... vi piacciono, no, come ma non sembra che vi piacciono. Volevo ringraziare perché solo in un giorno... 1100-1200 persone hanno visto questo e spot. Questo sta a significare che anche sotto le feste di Natale la gente veramente non ha che fare, non c'è più qualcosa da vedere in televisione e quindi si guarda gli spot di Shabalon. Andrea Fei ci dice, sì. Ale, hai paura di spettinarti? Ancora non abbiamo presentato gli ospiti, lo faremo tra un po'. Te Marci invece non rischi niente, cioè... No, anzi, io sento caldo, quindi sto essere bene. Caldo anche per è un'emozione perché era almeno dalla comunione che non avevo tante cose sulla testa. Allora, avete già visto gli ospiti, sapete già chi è con noi, ma prima di farlo, istituzionalmente siamo costretti a passare il primo brano musicale. Simone. E via. Real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real il nostro Simone voleva rimanere un po' in tema con il periodo, e questo era Sonic Jesus. Jesus. Dal disco Sonic Jesus. L'etichetta Sonic Jesus. E vabbè, via andare. È il 23 dicembre, come notate ovviamente dalla capigliatura mia, ma soprattutto quella di Marcello. E finalmente, Marcello, possiamo parlare di un argomento che a te è tanto caro. Anche perché è uno di quelli dove io riesco a esprimermi meglio, sostanzialmente. Lo sport. Lo sport. Oh, che tipo di sport? Uno sport, ma no sport. Chiaramente a livelli elevati, a livello professionistico. Io direi che forse questo, senza nulla togliere a tutti gli sportivi, tantissimi che sono venuti qua, anche professionisti, forse siamo al top. Al top. Siamo al top. A livello... Siamo nell'Olimpo. Sì, io sono convinto via dopo questa. Che la specialità di cui andremo a parlare è una delle più veramente intense, delle più performanti, delle più faticose. Ha imparato tre termini, intense, sì. Performanti e faticose. Questa sera basta. Allora, ospiti. E qui stasera abbiamo veramente delle punte di diamante. Una, no, due, terra. No, una. Una sola. Io mi pregio, insomma, di reputare. Eccoci. Allora, abbiamo con noi l'atleta olimpica della nazionale italiana di atletica leggera, Chiara Bazzoni. Ciao a tutti, buonasera. Grazie e soprattutto che coraggio che hai avuto. Coraggio. Ma infatti mi avevano detto che sarebbe stata una trasmissione seria, il manager mi ha... Ma in realtà Chiara, dimmi se non è vero che sei venuta prevalentemente per la musica di Simone. Sono venuta per la musica di Simone e per l'ingente budget che a fine serata riceverò. Esatto. Ecco, questo, quando si parla dello sport, questo. Fine a sera, cioè, veramente lo spontaneo olimpico. Ma, veramente. E presentiamo anche quello che da quest'anno, giusto, è il suo allenatore, e quindi Chiara annuncia, ha deciso di smettere di correre. Dopo questo. È con noi Alessandro Bracciali. Buonasera. Ciao, volevo far notare, se puoi fare uno zoom sul microfono di Marcello, questa sera come il simbolo sia stato messo al contrario sul microfono. E non l'ho fatto io, ma ci piace lo stesso. Ora, mi verrebbe spontanea da fare così, però dopo mi criticheresti, quindi. Allora, parliamo, dunque, realmente, Chiara Bazzoni, voglio dire, se voi andate su Wikipedia, e già il fatto di avere una pagina su Wikipedia, no, qualcosa vorrà dire. Ne ha solo una, ne ha sei. Non lo sapevo, no. Ve lo dico perché l'ho stampate, quindi. No, ma aspetta, cioè, stampando vengono fuori sei pagine? Sì. Ma è una pagina! Ma qualcosa ci verrà scritto, signore, no? Signore, sì. Come si fa? Cioè, un applauso. Vai avanti con la domanda, vai. Allora, cerchiamo di fare un po' la storia di Chiara, perché Chiara è un'atleta olimpionica, l'ultima sua gara ufficiale, no, non so se è l'ultima gara ufficiale, immagino di no, ma insomma il momento più alto del 2016 è stata la partecipazione a Rio alle Olimpiadi. Da dove iniziamo, Chiara? Intanto... Com'è Rio? No. Ma di Rio ho visto la pioggia e poco più. Perfetto, che immagine bellissima. No, facciamo così, intanto la disciplina in cui gareggi. 400 metri e la staffetta 4x400. Ecco, una delle, in atletica, una delle più dure, intense. E difficili. Ecco, infatti, perché... non per niente, caro Alessandro, tu mi hai sempre detto che la disciplina è soprannominata il giro della morte. Ecco. E perché? Perché provatela e poi... e poi mi sembra un'ottima... Io vado a fiducia. Il giro della morte o la gara che uccide, perché in effetti una volta che l'hai fatta ti accorgi come mai la chiamano in quella maniera. Come molte cose da dipendenza, perché la rifai. Sì, da dipendenza, perché comunque sia, come si dice sempre con Chiara, cioè l'atletica delle volte viene dipinta come sacrificio, tutto, invece poi alla fine è gioia, divertimento, insomma, nonostante il fatto che si allena con me si diverte, cioè nel senso... Ma perché è da poco, eh? Sì, è da poco. Ma Chiara, poi passa, sicuramente passa. Ma io volevo chiedere a Chiara, tanto per sciogliere un po', rompere il ghiaccio, tu sei di Bettolle, per chi ci seguisse, come c'è gente che ci segue da Roma, da Treviso, eccetera, amici che da Brescia, è in provincia di Siena, paesino, una frazione. Ecco, come ci si avvicina all'atletica leggera in una frazioncina di questo genere? Ma io ho avuto la fortuna di avere un cugino che faceva atletica leggera insieme ad Alessandro. Ah, ecco perché fa la... Scusa. E che facevo nuoto, non mi piaceva più e mi ha portato in pista. Sinceramente, da andare al campo una volta a settimana, a volte anche al mese, perché avevo 10 anni, ad andarci 2 volte al giorno mi sembra passato un niente, invece sono 22 anni. Ecco, perché vai, ti alleni in 2 sessioni giornaliere. Adesso da quest'anno è una sessione giornaliera, perché faccio un allenamento diverso, puntato sulla qualità e non più sulla quantità, e anche perché ho raggiunto un'età dove è importante anche il riposo e il recupero oltre all'allenamento. Sì, perché i 18 anni prevedono anche questo. Magari. domani diventa maggiorenne. Chiara, facciamo... Noi siamo veramente gioiosi di questa cosa, anche se anche noi vorremmo provare una sessione giornaliera. Per noi, ecco Alessandro, per noi basterebbe questa una sessione solo mensile, lui, forse. Questa l'ha capita solo lui. Va bene anche mensile. Grazie. Ah, ora l'ho capita anche io. Fa caldo. Sessione in pista magari, tutti insieme, dove noi vi intervistiamo e voi fate l'allenamento. Ecco, io non lo ridirrei 2 volte perché noi veniamo, Provate no, un 400, dove tutti insieme provate un 400 e vedete un po' la... No, guarda, noi... Facciamoci prestare la 500. Quindi Chiara, 10 anni passi all'atletica leggera, dal nuoto, e lo fai ovviamente per divertimento a quell'età lì. Quando ti sei accorta o si sono accorti che forse invece c'era quello che poi è venuto fuori, insomma, la campionessa, la stoffa? Ma non credo ci sia stato un momento in cui c'è stato questo passaggio. Diciamo che non ho mai vinto da piccola, o meglio, ero sempre tra le prime, però non raggiungevo mai il gradino più alto del podio. Questa cosa è venuta da grande, sopra i 20 anni, e quindi probabilmente la stoffa c'era, però mancava qualcosa. Insomma, il fatto di farlo per tanti anni non è stato il risultato quanto il piacere e la passione per questo sport che poi mi ha portato al risultato. Ora io, poi dopo passiamo anche ai risultati che sono veramente eccellenti, voglio fare delle domande che esulano un po', ci siamo preparati per 2 ore, non farò nessuna delle domande che gli avevo preparato. No, a livello professionistico sempre più sportivi hanno mental coach, oltre che coach, ma veri, non così, insomma. ci permettiamo di scherzare, no, io ho ragione. Perché Alessandra è un amico, solo per questo ci permettiamo di scherzare. Su una corsa così, comunque breve, nel senso che i 400 metri in che tempi si fanno? Il mio personale è 52 secondi. Pensa, io nemmeno i calzini in 52 secondi. No, la mattina. Per dire, ecco. Hai anche tu un mental coach o qualcosa del genere, oppure basta il coach? No, allora in questo momento non ho un mental coach, ce l'ho avuto, ce l'abbiamo avuto anche con la nazionale, però è fondamentale, e credo che sia fondamentale sia per gli sportivi quanto anche per gli allenatori, perché comunque un allenatore deve sapersi approcciare all'atleta in base alla persona che ha di fronte, non si può comportarsi con tutti allo stesso modo. Ha detto velatamente che ha bisogno dello psicologo il suo allenatore. Sì, ho capito questo anch'io, onestamente. Almeno a me è venuto in mente questa. No, per l'atletica va bene, ma per la testa zero. corre, ma insomma poi dopo spiegarlo... No. Non potevo dirglielo direttamente, devo andare in analisi. Shabanon ti ha dato questa opportunità. Da stasera, quanto tempo è Alessandro il tuo allenatore? Da settembre, ma ci conosciamo da 22 anni, anche più, quindi... Vabbè, alla fine ha detto, vabbè. No, effettivamente anche lei ne ha un mental coach. Allora ha bisogno anche lei. Non l'avesse conosciuto, ma... Ma conoscendola... Tra l'altro, non so se avete notato, anzi sicuramente avrete notato, che ha veste la tuta ufficiale della nazionale italiana alle Olimpiadi, che stiamo invidiando in modo clamoroso, ma d'altronde... Vabbè, io solo perché non sarebbe la mia taglia. Ma vabbè, questo vabbè, è ovvio. Però io potrei anche rubare. Oh, Simo, quanti minuti sono? Simone dice solo i minuti. Allora, facciamo così. Facciamo sì, che dai numeri... Che brutta musica, ma vabbè. Rallegriamo Chiara con un po' di musica di Simone. Guarda, te lo preannuncio il brano. Con le tante curiosità che abbiamo e... Vediamo un po', qual è la prossima? Marching Church, prima Jesus, poi Church. Sei voluto rimanere in tema, è Natale. Va bene. Heart of Life, ma sentite bella voi, In the silence, revelations comes forward in the absent word I have silence and the violence. Gender in is rushing through the fence, swinging arms in the violence. Oh my brothers, catch me where I fall again. I'm always tripping when it rains, my brothers. Oh my sisters, kiss me on the cheek and say I still love you, but such a waste, my sister. I stand a reject at the heart of love, carving through concrete with a butter knife. A colossal outbreak of clamor surrounds me. Various rhythms and tempos are as if fighting against each other. Bragging voices melt into the stream. Stream which is the river which is the heart of life. I mean, and all the while it feels as if the light of the moon is following me. Like a spotlight in some bizarre theater of loneliness. Fist fucked by destiny, I'm positioned like a beggar at the heart of life, sugar. My delusions, the treasures of a misted life, vaguely resemble paradise at times. In the wilderness, directions lost while discovery tests new visions in the wild. Oh my brothers, catch me when I fall again. I'm always tripping when it rains, my brothers. Oh my sisters, kiss me on the cheek and say I still love you, but such a waste, my sister. I stand a reject at the heart of life, carving through concrete with a butter knife. Everything seems to have led up to this, but that's a force or education. Yet a matter of realizing when one can't belong, one feels the urge to ruin at the heart of life, baby. And all the while it feels as if the light of the moon has been following me, like a spotlight in some bizarre theater of loneliness. Fist fucked by destiny, I'm positioned like a beggar at the heart of life, sugar. Torniamo di nuovo insieme. Come sapete, con gli amici che ci guardano in video non ci lasciamo mai. Con quelli da casa, sì, da casa, beh, quelli che si ascoltano in podcast hanno la sfortuna di dover sentire un po' di musica. Ma possono sempre mandare comunque avanti. Mandi avanti, insomma, è facile, il podcast è bello per questo. E siamo insieme a Chiara Balzoni. E parliamo di atletica ai massimi livelli, a livelli olimpici, che, perché Chiara, e lo ridico a tutti ogni volta che rientriamo in onda, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in quale specialità? 4x400. Staffetta. Ci vuoi raccontare un po'? Partiamo subito da lì. Sì, sì. Da Bettoli. Togliamoci il dente. Togliamoci il dente. No, sembra come dire questo sacrificio. Affrontiamolo subito perché è una cosa molto interessante. Allora, dopo anni, facciamo così. Dopo anni e anni di sacrifici, di duro lavoro, sei arrivata a fare le Olimpiadi. Ok. No, mi guardi come se dicessi delle cose. No, ma è lo stesso, la stessa cosa che provo a me. Perché non è un sacrificio quello che faccio. Bravo. Dopo che ti sei divertita come una matta per tutta la vita, non solo noi siamo stati a lavorare e te ti sei divertita, ma te ti hanno mandato anche a Rio a fare le Olimpiadi e noi siamo rimasti a casa a lavorare. Ci ha portato solo la pioggia. Ah, ecco, noi avremmo portato altre cose. Noi a guardarti in televisione e te lì. E te lì a divertirti. Allora, ovvia, facci schifo per del tutto e raccontaci com'è andata. Vabbè, ma era un messaggio per dire che lo sport non è sacrificio. A noi ce le dici dritte, sennò non si capiscono i messaggi. Abbi pazienza. Almeno non è solo sacrificio. Sì, no, vabbè, ora sai che noi scherziamo. Però Marcello vuol sapere com'è andata a Rio. Allora, sto divertimento. Allora, io sono stata in Brasile 22 giorni più o meno. E già. Che già di già qui. Ti pone. Ma non pensate quello che pensa, non è come pensate voi. Di cui 17 a San Paolo a fare uno stage di allenamento e 5 giorni a Rio. In quanto nel villaggio olimpico si può entrare solo 3 notti prima della propria gara. Questa è una scelta italiana. A San Paolo ci siamo solo allenate. Eravate voi solo della squadra della staffetta o c'erano anche altri atleti? Passavano da San Paolo più o meno tutti gli atleti dell'atletica leggera, non degli altri sport. Perché ricordiamo, insomma, lo sanno tutti, le Olimpiadi prevedono praticamente tutti gli sport, quindi migliaia e migliaia di atleti. Questa è stata una scelta della nostra federazione. Dopodiché siamo andati nel villaggio olimpico. E su questo faremo un intervento a parte. Perché te hai delle idee che sono totalmente forse fuorvianti, ecco. Che non so quali siano, perché... No, ma se guardagli l'occhio da triglia, l'occhio da triglia è tutto un programma. Girano voci, leggende sul villaggio olimpico. Basa sul consumo di condom, per caso, esatto, che ci sono. Li distribuivano, c'era il distributore automatico all'uscita della mensa. Voglio dire, io lavoro in un'azienda dove c'è la mensa, ma di condom non se ne parla. Cioè, voglio... Vabbè, parleremo con il proprietario della tua azienda. Pensa, io non c'ho manco la mensa. Dove lavoro io. Quindi poi siete arrivati al villaggio olimpico, quindi avete iniziato a respirare l'aria olimpica. Abbiamo cercato di ambientarci, capire dove era la mensa, tutti i vari posti del villaggio. Dopodiché in realtà abbiamo fatto un giorno di allenamento, due giorni di gare e poi siamo ripartiti. Allora, con calma, nel villaggio olimpico ti è capitato di incrociare atleti strafamosi, oppure come si dice anche qui, loro fanno vita a parte senza partecipare alla vita del villaggio olimpico? Allora, ho incontrato atleti famosi. Purtroppo la staffetta, la 4x4, è una delle ultime gare e quindi la maggior parte degli atleti se ne erano andati. Non so se la domanda magari era rivolta a Bolt non l'abbiamo incontrato, però in altre occasioni, tipo mondiali in Cina l'anno scorso o le Olimpiadi di Londra, invece era nel villaggio con noi. Ecco, perché ora ci stiamo focalizzando sulle Olimpiadi, ma in realtà... Chiara ha fatto tantissime manifestazioni, ma Marcello è voluto partire da lì e allora continuiamo. Da lì si può partire da lì e andare anche a ritroso, perché chiaramente... Ma aspetta, non è finito, ora no. C'è ancora da parlarci di tutto. Appunto. Quanto. No, com'è entrare nello stadio olimpico? Allora, vi smonto subito. Sì, vabbè, però ci stai smontando e basta. Ci stai disilludendo. Cioè, poi era meglio su un venivi, Chiara, io te lo dico. E il budget era talmente alto che non potevo rinunciare. Rimanevamo con i nostri sogni di bambini. Perché a Rio non ho corso, ma ho fatto la riserva. Beh, ma... Non sono entrato nello stadio olimpico durante la gara. Ah, ma nemmeno dentro lo stadio? No. E la trasmissione finisce qui. È andata così. Vabbè, ho detto un sacco di cose, ma in realtà... Vabbè. No, questo che vuol dire? Questo no, a noi non ci ma interessa. Non scalfisce assolutamente. Assolutamente. Assolutamente. Però, vabbè, voglio dire, sarete... Cioè, qualcosa ti sarà rimasto di questa Olimpiade. Il bello dello spirito olimpico è il fatto di avere tutto il mondo in uno spazio piccolissimo e di vedere grandi campioni che uno se li immagina come degli extraterrestri, invece persone come te, sia fisicamente che in quello che fanno, poterli osservare magari quasi tutto il giorno, e questo ti stimola ad andare avanti e provare a raggiungerli. Possiamo dire la tua età? Tanto sei su Wikipedia, c'hai cioè 6 pagine, una dietro quell'altra, tutte stampate, quindi voglio dire, perché poi non dirlo? Dipende anche dal carattere che usi, può diventare anche uno. Fai un 12-11, fai diventare 3 pagine. Quanti anni hai, Chiara? 32. Quindi diciamo che ancora qualche anno si può gareggiare ai massimi livelli. Sì, sicuramente andrò anno per anno, nel senso... Ah no, scusa, mi ero dimenticato, t'allena lui, è finita la carriera, vabbè, ciao. Andiamo con la trasmissione. Sì, vabbè, magari a 32 anni fai progetti un po' più brevi di quando hai 20. Sì, i progetti sono sicuramente più brevi. Sicuramente il top della carriera è questo, comunque non per tantissimi anni, però non ho voglia di mollare. Facciamo una domanda all'allenatore Alessandro Bracciali: che cosa ha intenzione di fare per far sì che Chiara per altri 12-13 anni sia a questi livelli? Ecco, senti Alessandro, ti volevo chiedere: che cosa hai intenzione di fare con Chiara per non farla mollare per i prossimi 12-15? No, volevo smontare. Vabbè, questa è una trasmissione sulle Lego, non è? Ragazzi, avete buttato veramente sottoterra il nostro amor proprio stasera. Ci vuole il mental coach per riprendersi da sta trasmissione. No, no, no. Con Chiara, vabbè, siamo stati abbastanza chiari. cioè nel senso andiamo anno per anno e comunque ci siamo dati 2 anni e poi dopo deciderà lei, insomma. Perché i prossimi, diciamo in previsione, i prossimi appuntamenti quali potrebbero essere? Allora, quest'anno ci sono gli europei indoor, i campionati del mondo di staffette e i campionati del mondo all'aperto. E anche i giochi del Mediterraneo, no, ma l'hanno rimandati, l'hanno spostati al prossimo anno. I giochi del Mediterraneo, dove Chiara ha già partecipato ai giochi del Mediterraneo. Ora mi guardi così, ho paura di dire qualunque cosa. Aspettando la domanda, sì, ho partecipato nel 2013 e li ho vinti. Perché una cosa l'avevo vista. Mi fa prendere paura ora, ogni volta che apro bocca, io ora sto solo a riprendere, vai oggi. E comunque, diciamo, gli obiettivi sono uno prestativo, perché il suo sogno ha in mente di andare sotto la barriera dei 52 secondi e ci adoperiamo per fare questo. E poi, diciamo che l'appuntamento, quello più importante che ci può essere in questo biennio, sono gli europei del prossimo anno, cioè del 2018, ormai io ragiono a 2017. Ecco, comunque anche per questi appuntamenti qui come funziona? Devi fare delle gare intermedie per qualificare, insomma è comunque un allenamento, una preparazione che si può programmare. Sì, sì, certo, la programmiamo. E la programmi te. Sì, esatto. allora sì, no, in realtà la faccio io e dai il merito. Bravissimo. Allora, Simone, siccome sto facendo... Quanto tempo? Quasi 9 minuti, allora dobbiamo andare con un brano, alla fine del quale faremo il collegamento con Roberto Andreucci, che ci segue. Al quale domanderemo, perché so che anche lui è un grande sportivo, un fisico, lui diciamo, fa temprato. 400 metri piano. Piano. Io pensavo facesse come me le 4 portate piano. E non quello le fa veloci, te lo dico, sei sicuro. Va bene, allora andiamo con un brano. Uno straordinario brano dal titolo Kakmdaf Kaka. Hey, I see you working it. I see you strutting down the street, you look important. I walk the other way. I don't wanna bother you with my surprise. E sto torniamo anche in studio con una, non ve lo disannuncio nemmeno se mi pagate, questo brano, perché ha un nome che Simone si pentirà di aver scelto, questo Kamma Fa. Siamo sempre insieme a Shabalon, siamo con Chiara Bazzoni che si diverte a correre, con Alessandro Bracciali che si diverte a fare l'allenatore, con Marcello che ha una vita per cui non si diverte, esatto, in niente. Mi diverto a tenere il microfono perché abbiamo un ospite importantissimo, come promesso, graditissimo. Abbiamo in linea Roberto Andreucci, ciao, da Roma barra Todi. Buonasera, da Todi diciamo questa sera. Ciao, Roberto è stato con noi già nella mitica trasferta di Roma, ci ha portato in giro per Trastevere e anche al Duz, e quindi insomma ormai è un amico, è introdotto e ha insistito per partecipare a questa trasmissione perché è un grandissimo atleta. Sì, più che altro sono un grandissimo fan di Chiara Bazzoni. Guarda che faccia che hai. So tutto di lei. Grazie, anch'io di te. Potrei dimostrarlo questa cosa dicendo per esempio una cosa che non avete detto, che il cugino che l'ha portata nello sport si chiama Nicola Bernardini. Vabbè, ma così è detto, e io lo so, questo dimostra che io conosco vita, morte e miracoli di Chiara. Ma mi ricordo che quando sono venuto a trovarti a Roma mi hai detto: guarda, non vedo l'ora di venire a Foiano perché so che a Bettolle ci sta Chiara, vero? E poi la stimo moltissimo perché i 400 metri io solitamente li faccio con lo scooter, nel senso che a piedi non l'ho mai fatti, e quindi stimo molto chi riesce a fare queste cose di corsa, neanche a piedi. Già, un'ammirazione sfrenata. Grazie. E poi per dire una cosa seria, mi piacerebbe molto che tutti questi sport, l'atletica e quant'altro, che sono considerati sport tra virgolette minori, abbiano più spazio, e che gli atleti che ne fanno parte, che veramente adesso lei si diverte, ha detto che si diverte, ma in realtà immagino che le sessioni di allenamento non siano poi così divertenti alla fine, dovrebbero avere un maggior rilievo e occupare qualche pagina in più dei giornali sportivi, che invece scrivono cagate sul calcio per 365 giorni l'anno. Io mi vanto di non averli mai aperti, ma so che scrivono solo di calcio, e mi domando cosa scrivono di calcio, specialmente quando non c'è neanche il campionato. Se invece dessero spazio a persone come Chiara, io sarei molto più felice. Questa è la cosa seria, non ne dico più, giuro. Sì, anche perché c'è un po' spiazzata adesso, non sappiamo noi come andava. Non ce l'aspettavamo, Allora, che dire, io con Roberto condivido una passione che è quella per il tennis, siamo due grandi tennisti, è inutile che ce lo nascondiamo, voglio dire, giusto? Appena giocato io, sono Vedi? Appena rientrato da due ore dal campo. Respiri ancora? Infatti no, sono seduto, non riesco a muovere le gambe, ho acido lattico da qui al piede. Roberto, ti volevo chiedere se conosci un mio amico di Todi, so che queste cose si fanno. Matteo Natili. No, lo conosci. No, è un allenatore di atletica, quindi ecco, sai. Di atletica? Sì, di atletica. Ma Roberto, l'atletica. Cioè, lui segue solo Chiara, Solo Chiara. Lui è un fan sfegatato di Chiara, poi il resto dell'atletica. Ci conosciamo da tanti anni, però non ve l'avevamo detto ancora. Ah, ecco, vi conoscete da tanti anni. Allora è una carrambata questa. Questa è una carrambata. Aspetta che c'è un messaggio. Quando lei ha conosciuto me stava per smettere con lo sport. io ho detto tutto. Aspetta che ho dei messaggi. C'è Andrea Fè che dice che Edicola Fiore ci fa una pippa. Va bene. Troppo buono. Marcello, di questi tempi è sempre meglio essere vicepresidente. Non so che Sauro ti dice qualcosa del genere. Sì, ho capito. Io sono d'accordo. Allora, noi ci ripromettiamo questo. Con Roberto avevamo detto che un giorno, se Federer avesse raggiunto di nuovo le finali a Wimbledon, saremmo andati. Facciamo così. Ora seguiamo Chiara. Ovunque vada, noi andremo con lei. Va bene, Roberto? Promesso. Ma proprio... Dovevi iniziare prima con il nostro Alessandro. Sì, c'è questo problema. Che ora il suo nuovo allenatore non dà troppe garanzie. Probabilmente lei farà i giochi della gioventù qua. E non è detto che si qualifichi per la finale, però fa la campestre questa. Diciamo che semmai il problema sarà quello di trovare assolutamente la seguiamo. Ovunque vada, assolutamente. Sì. Dovremo trovare qualcosa da fare ad Alessandro, semmai. Chiara è bene impostata. Ma con Alessandro andremo a pranzo. A Todi ci sono tanti dei bei ristoranti, giusto, Roberto? Assolutamente. Noi, io, Roberto, guarda, io starei con te. Aspetta, mi tolgo il cappellino che fa leggermente caldo. Staremmo con te delle ore. Non so, se vuoi finire con una frase importante che normalmente ci lascia. Voglio finire con una frase importante? No, non lo so, quello che vuoi. Adesso mi metti un po' in difficoltà, perché io sai che di cose serie ne ho detta una, adesso la prossima l'ho prevista fra 8 giorni. Ricordiamo che... Scusa Roberto, Chiara fa una sessione di allenamento ogni giorno. Tu hai giocato 2 ore a tennis oggi, quando pensi di poterti rimuovere dalla sedia, dalla cucina di... Domani mattina ho previsto 8 chilometri di corsa veloce, poi mi giro dall'altra parte e ne farò altri 8. Guarda, pensavo 8... Io stimo perché più di 1 chilometro non faccio. Gli 8 chilometri di corsa veloce... Non hai afferrato che mi giro dall'altra parte? Ho capito. È che dorme poco. Non in verticale. È che Chiara dorme poco perché c'ha da correre, capito? Certo. A me succede quando perdo il furgone che mi porta il pane. Allora gli corro dietro con andatura veloce. Beh, ecco. Certo. Allora, ringraziamo. Aspetta che c'è un altro messaggio che arriva ora. Sauro che continua a dire siete grandissimi, evidentemente anche Sauro ha bisogno del mental coach, però noi lo ringraziamo lo stesso. Ringraziamo anche Roberto, ovviamente molti di voi tutti l'avranno riconosciuto, lui è il mitico signor Giovanni con Amadeus, ci ha fatto morire dalle risate, ma ha fatto anche tante altre cose, ma le diremo le prossime volte che siamo di nuovo insieme, va bene Roberto? Va bene. Noi ci vediamo. Prego. Vi auguro un buon Natale, buone feste e grandissimi successi ancora a Chiara, che spero che tu possa continuare ancora molti anni, anche se hai detto che vai un anno alla volta, però io ti auguro invece di andare avanti ancora per molti anni, perché i trentenni, e qui includo anche il nostro Roger, devono dimostrare che si può fare molto fino ancora più avanti, quindi vi auguro grandi successi e ti auguro grandi successi. Grazie mille, grazie di averti conosciuto, buon Natale anche a te. Grazie. Alla prossima. A presto. Ciao Roberto, grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao Roberto. Ciao. Che dire? Noi ormai vogliamo fare anche dei collegamenti via satellite, possiamo farli. Aspetta che prendo in mano quella situazione. Ma ci ha pensato Enzo, ti voglio come presidente, Sauro. Approfondiremo. Non ho capito, però mi fido. Grazie Sauro. Approfondiremo. Ho già dato abbastanza comunque in queste vesti. Non so però di che cosa stiamo parlando. Ma no, specifichiamo a Sauro che comunque Enzo è presidente di qualche cosa. Appunto, basta. Ma non siamo qui per questo. Siamo qui per parlare con una persona che nella vita si è divertita e basta. E continua a divertirsi e questo spiega perché vuole continuare a divertirsi. Allora Chiara, abbiamo parlato dell'ultima cosa che hai fatto e andiamo a ritroso. E altri appuntamenti importanti nella tua carriera quali sono stati? Ho partecipato a 4 mondiali, non mi ricordo, 6 europei. Pesi welter, le Olimpiadi di Londra, i Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa. Quelli italiani io nemmeno non li diciamo. Quante volte l'hai vinti i campionati italiani? Nella gara individuale 4, con la staffetta 10-12. No. Cioè anche Dupal a un certo veramente punto. Sì. Gli dicevo guarda la medaglia tua, ma vabbè, cioè, sta medaglia, ma ancora la medaglia. Il contabile. Uffa. Sì, guarda, c'era se la fai i campionati italiani. Ecco, dove tieni i premi di tutte queste vittorie? Ma quelli più importanti o in camera o in sala. E se no gli altri in una scatoletta. Magari potremmo fare una trasmissione auto. Casa di Chiara. Vediamo quello che c'ha in giro. A casa di Chiara. E Alessandro, ma te non senti addosso la responsabilità di aver rovinato una carriera così, così importante? No, la responsabilità la sento, però... Io scherzo, ovviamente scherzo. No, cioè, lo so che scherzi. No, vabbè, diciamo che ci divertiamo. Ora, a parte questa cosa, si è detta più volte. Però sì. Anche se... Ogni tanto la faccio sta male, tipo ieri abbiamo fatto un allenamento dove la vedi stare male, perché quando fai certi tipi di allenamento la chiamano il giro della morte, ma devi morire tante volte prima di fare quel giro, e ti posso garantire che almeno una volta a settimana lei muore. E... ho più di 9 vite. Decisamente. Però insomma, stiamo insieme quanto? 2-3 ore al giorno, passano bene, è quello che ci piace, quindi sì, il peso della responsabilità lo sento, perché appunto ha fatto una carriera veramente eccezionale, e fargli fare qualcosa di più sarà veramente difficile, però... Beh, è comunque una grande sfida, stimolante. Certo. Tra l'altro anche Alessandro, vogliamo ricordare che è stato un atleta di tutto rispetto, però voi lo vedete grasso, insomma, così. Soprattutto con le compagnie tipo le nostre, diciamo, esatto, che magari ne potrebbero sminuire invece, insomma, il valore. Ma anche tu hai partecipato a competizioni a livello internazionale. Sì, meno che la Chiara, però insomma, più che altro a livello giovanile. Io ho iniziato un po' prima a vincere di lei, mi sono fermato. Mi sono smesso prima. E quindi... Sì, ma lei si è annoiata di vincere. Sì. Infatti mi alleno per perdere. Quarta. No, anche quinta, sesta. Ma... non andare a medaglie. Sì. Anche per perdere ci vuole di saper fare. Soprattutto se sei brava, cioè dovessi fermare, guarda che non è... È una cosa seria questa, è più difficile perdere che vincere. Parliamone. No, io voglio l'indirizzo del mental coach, perché già questo è... No, intendevo a livello mentale, cioè è più difficile... Ah, certo, accettare la sconfitta. Sì, quindi nel senso bisogna allenarsi anche a quello. Assolutamente. Quando noi parliamo di divertimento significa che non ci alleniamo per perdere, assolutamente, però dobbiamo essere anche capaci di accettarla, la sconfitta. Questo è un argomento forse troppo serio per questa trasmissione. Dopo rischieremo Natale, di rovinare dopo tutto, Natale, guarda, sì, te lo dico, Chiara. Vale Natale. No, però effettivamente... noi, soprattutto lui fa il coglione, cioè Marcello. Mi viene bene, ma ci studio. Anch'io. Però effettivamente se proviamo a pensare che il livello... Gianni e Pinotto. Che il livello di Chiara è un livello mondiale, per cui evidentemente tutto quello che viene organizzato per arrivare a un evento è meticolosamente organizzato, non lasci mai niente al caso. No, anche perché il nostro è uno sport dove... anche se di tappe intermedie ce ne sono tante, ma alla fine tu ti alleni un anno per una gara che dura 50 secondi, quindi poi ci possono essere talmente tanti interventi esterni e non che magari ti fanno sfumare quell'evento lì. Quindi quella gara l'hai già corsa migliaia di volte prima? No, Blas, ciao. No, se corri prima la gara l'hai già persa, però sicuramente l'hai preparata a 360 gradi. In realtà... c'è stato uno spot di Bolt dove diceva che lui sembrava avesse vinto le Olimpiadi in maniera troppo facile, ma in realtà lui le Olimpiadi le ha vinte allenandosi, non il giorno in cui ha gareggiato. Si diceva, un coach diceva, le medaglie si vincono negli allenamenti, si vanno a ritirare in partita. Perfetto, traduzione azzeccata. Puoi andare via perché ci penso io, Chiara, da ora in poi, questo te lo voglio dire, è inutile che stiamo a raccontarcela, ma... per esempio, ecco, la cosa che mi affascina di più di questo tipo di gara, quello che dicevi te, che veramente minimo per un anno lavori per un minuto, in questo caso, o comunque per quel giorno lì e basta. Sei sola, no? Anche se è una staffetta, comunque quel pezzo dipende solo da te, non è una squadra. E come si cerca di arrivare alla gara sempre in perfetta forma? Ma dico anche una cosa banale. Anche per evitare la semplice influenza, si fa qualcosa di particolare o si spera nel buon Dio? Per l'influenza quella è... No, immagino magari no, fai però... dei vaccini, cose, delle cure, niente. No, è la parte più difficile dell'allenamento, quello sì, perché programmare, diciamo, delle sessioni di allenamento o anche periodi di allenamento non è difficile, insomma, devi sapere quello che fai. Però, dovresti dentro, sapere insomma, nel mio caso. Beh, qui lo sappiamo. Però la parte più difficile è proprio il periodo prima della gara, perché come diceva lei le variabili sono tante, di anno in anno non è detto che se fai la stessa cosa 5 giorni prima vada bene quest'anno e per il prossimo, quindi deve avere tanta capacità di adattarti alle situazioni, perché può succedere che una settimana prima appunto c'è l'influenza oppure c'hai un dolore che ti è venuto fuori, non sai, e quella è la parte più difficile, insomma, ecco, preparare, certo, i giorni prima delle gare. A quanti minuti siamo? 20 minuti? Allora direi che prima di andare con un brano, però devo salutare delle persone che ci stanno seguendo. Paolo Massari, quando alla... vabbè, questa non la leggo, non la leggo Paolo, ma ho capito, grazie, ciao, da Brescia tra l'altro. Giancarlo Valdambrini, Francesco Pulcinelli, lo conosci, brutti momenti per tu. Ma chi? Ma Francesco, ah beh certo, per forza, Francesco Pulcinelli fa il fisioterapista, insomma, questo è importante. Matteo e Francesco Bartolomei, io li saluto tutti, e ancora Sauro eccetera, insomma una marea, va bene, grazie, siete sempre tantissimi, grazie. È un quarto allaccia scarpa, scarpa sono allaccia, tutti termini tecnico sportivi che questi sì, sì, che voi non potete capire, ci entreremo anche noi, è come se fosse Antani. Il prossimo brano, torniamo, siamo tornati, questo è Shabalon, è sempre il 23 dicembre, è sempre brevissima. vi ricordo che venerdì prossimo non saremo in onda, vi ricordo anche che siete tantissimi, ma è inutile che vi ricordi a voi stessi che esistete. Sì, faremo una grandissima reunion, come dove... Shabalon Party. Tra l'altro, in quell'occasione faremo un grande palco e per farvi sapere, vedere che la vita è bella, Chiara sarà sul palco a dire che lei si diverte. No, lo facciamo in una pista di atletica, prima un 400 e poi... Guarda che te la butti là così, ma noi ma guarda ci che te lavoriamo, non hai idea . Dei 400 metri, che continua a dire che forse si fa. Ci lavoriamo sopra, vediamo, qualcosa organizziamo. Ci sono ancora altre tapioche, poi ci chiedono, e la Juventus? La Juventus ha perso ai rigori la finale di Supercoppa italiana, ma questo non è una cosa che ci interessa. A noi... Ma comunque erano contenti tutti perché era sport anche quello. Ma sì, a proposito, Chiara, segui il calcio? No. Vabbè, ma anche con... vabbè. Mi piace perché magari sono tutti... No, va bene così, va bene così. Guarda, siamo oltre, già in due. Oltre l'atletica, segui qualche altro sport oppure... Cioè, ma io già mi diverto qui, ma a me che me ne frega. No, quando gioca la nazionale o comunque ci sono campionati europei, mondiali di altri sport, sì. Lo sport, insomma, fa parte della mia vita, quindi sì. Come... Allora, ora provo a fare una domanda seria. Se viene bene, bene, se no si spegne tutto. Arrivederci. Esatto. Come vive un atleta professionista, perché tu, questo è il tuo mestiere, ci siamo scordati di dire che è un militare dell'esercito italiano, Chiara, attenti, è un grado che... Caporal maggiore scelto. Cioè, non a caso, proprio scelto, te. Tra i tanti, abbiamo scelto te. Scherziamo col massimo rispetto per chiara. Tutte le istituzioni. È chiaro. Ecco, però insomma, di fatto sei un atleta professionista. Quanto influisce sul tuo modo di vivere normalmente? Ovviamente per dire non fumi. No. E quello è il minimo. Però per esempio la sera puoi fare tardi, faccio domande banali, ma io quello sono banale, che devo fare, che posso fare? Ci piace per quello, eh. Cioè, quanto influisce? Cioè, avrai delle amiche che vanno a divertirsi qualche sera e stai a casa te? Influisce a 360 gradi, nel senso che riesco a fare tutto nella giornata, nella settimana, anche, cioè, oltre allo sport, riesco a gestirmi, però tutto è influenzato da questa cosa qui. Volontariamente, è assurdo dirlo, però non è un peso. No, che ti diverti. Se lo fosse, non lo potresti fare perlomeno per tanti anni. Magari lo è stato un po' di più quando ero un po' più giovane, perché facevi più fatica a capire. Però influenza tutto, perché influenza il non fare tardi, perché se non dormi quelle 8 ore, la mattina dopo non sei in grado di fare l'allenamento a quell'intensità e a quel livello. Di non mangiare troppo, perché poi la digestione dà fastidio, eccetera, eccetera. Però non significa che non posso andare a cena fuori, non posso fare una serata in discoteca. Però influenza le vacanze, influenza tutta la vita. Però è una scelta, quindi certo. È una cosa... Mi diverto. Che palle, però, insomma, anche a certo punto. E senti invece, Alessandro, da allenatore invece è proprio una pacchia. Cioè, te bevi, tu ubriachi tutte le sere, ovviamente. Beh, ero dimenticato di dire che invece Alessandro fa il poliziotto. Un saluto a tutte le istituzioni, le armi. Dal corpo forestale fino a... Non c'è più dal primo gennaio. Non c'è più il corpo, non c'è più il corpo forestale. Ce lo ricordiamo con un affresco. Venerdì si fa la puntata, eh? Come mai non c'è più il corpo forestale? Perché entra nei carabinieri. Nei carabinieri? Diventano carabinieri. Vengono assorbiti dai carabinieri. Facciamo una mezza puntata su sta cosa. Cioè, e praticamente, per dire, la panda del corpo forestale diventa la panda dei carabinieri / corpo forestale? Sembra, non so se è uno scherzo, ma sembra che le macchine dei carabinieri diventeranno anche verdi. Pensa, sono un po' di bufala, non si sa se è una bufala oppure c'è un fotomontaggio da internet, da Facebook, oppure in realtà, però sembra che ci sono già delle macchine della forestale verdi che c'è con la scritta carabinieri, ma no, ma scusate, non definiamoci delle carriere. Sulla polizia idraulica abbiamo notizie, perché... La polizia idraulica, vabbè, ci arrestano, guarda, per me, tra l'altro ci possono arrestare anche loro, tra l'altro, quindi, quindi è meglio stare buoni. Guarda, non si può nemmeno dire di scappare, perché... No, ci richiappano subito. Sì, vabbè, siamo messi male. Ma con divertimento, mi schiappano. Ci hanno arrestato, ma da morire dalle risate, guarda, proprio risate. Volevo dire... è impossibile. Aspetta, c'è una domanda. Ah, come si chiama il corpo militare sportivo? Sei un po'... Cioè, no, fiamme? No, io sono nell'esercito. Ah, esercito, mentre la polizia? Fiamme oro. Ah, vedi, le fiamme gialle invece sono... Io facevo parte delle fiamme oro. Esatto, fiamme gialle, finanza. Fiamme azzurre, polizia penitenziaria. Carabinieri. E poi adesso esistono anche le fiamme rosse, che sono i vigili del fuoco. Non vi chiedo quelle del corpo forestale, perché anche loro sono venute meno. Sono frasche verdi. Qui siamo veramente vilipedio. No, tranqui, ci assumiamo tutte le responsabilità. Tutto quello che viene detto è colpa di Marcello Bernardini. Ormai a questo punto. Via, tanto ormai, con una tutti i problemi. Serie. Questa è la meno, questa te la fanno scontare magari, per prima. Magari è la volta buona, vado in prima pagina. Chiara, che non c'è tempo, io lo sapevo che non avremmo parlato di niente. Comunque, ancora qualche minuto, ce l'abbiamo. Hai detto hai fatto anche le Olimpiadi, hai partecipato anche alle Olimpiadi di Londra. Prima di Dina, guarda, mi sarei ammazzato, te lo dico veramente. Lei si divertirà, io sto morendo qui. No, per fortuna, perché almeno... In che posizione hai corso della strada? Prima pensionista. Cioè, che io so, di solito è quella più forte, la più veloce, la perché più veloce... deve dare il ritmo a tutta la batteria. Sì, ci sono più possibilità. Di solito la prima e l'ultima sono le più veloci, la seconda la più resistente, la terza la meno esperta. Non sempre è così, però tendenzialmente questa è il motivo. Ma è la sua filosofia? Sì, è sempre stata la sua filosofia, anche quando non mi allenava, che se ne parlava. Allora è sbagliata sicuro. Cioè, insomma, qualcosa c'è qualcosa che non va. Qui la redazione ci ha come dato... Come è andata a Londra? A Londra siamo arrivate undicesime. Non è undicesimi a Foiano, fra Foiano, Marciano e Lucignano, cioè undicesimi nel mondo in Olimpiadi, quindi complimenti. E poi insomma ci sono queste nazioni ormai storiche nell'atletica leggera che non danno più, anche se nella staffetta ogni tanto qualche nazione extra quelle emerge. Più importanti si fa rispettare, vero? Si si riesce a far maturare l'aspetto tecnico più che quello qualitativo dell'atleta, allora si riesce a lavorare su quello, si può prendere anche qualche posizione alle altre atlete. Ma com'è possibile che l'aspetto tecnico in una corsa così veloce possa prevalere? Domanda seria, ma non è detto che dovete rispondere per che forza. Esiste una risposta? No, esiste. Cioè, l'aspetto tecnico è importante perché correre sembra una cosa banale, correre forte, invece è molto molto difficile. Cioè, magari anche solamente la posizione del piede spostata di qualche centimetro, anzi di 1-2 centimetri, ti può influire un decimo su 80 metri o 100 metri, roba del genere. E un decimo ci sì. Vinci o ci perdi, insomma. Ecco. Quanto è cambiato il tuo modo di correre dai 20 anni a oggi? Ma sicuramente è stato il salto di qualità, forse quello di cui si parlava prima. E l'allenamento tecnico è uno dei più importanti, poi è logico il cronometro è l'altra parte, però... Aspetta, però non dirmi che non è noioso stare lì a vedere come mettere il piede un po' più spostato. È bellissimo, è da morire dalle risate. Ecco, ma scusa Enzo, prima proprio a questo proposito, mi incuriosisce questo fatto, ma usate anche delle tecnologie per capire queste cose di cui stiamo parlando ora o si va a occhio, diciamo? Come rovina una trasmissione. Sono discorsi che si fanno con lei abbastanza spesso. Allora, l'allenatore deve avere occhio innanzitutto, perché ovviamente se la tecnologia la do in mano a uno che non vede alcune cose, però la prima cosa è vederla d'occhio. Cioè, nel senso, io la prima cosa, le prove mi piace vederle proprio a contatto diretto. Dopo ci sono delle applicazioni che ti fanno il rallenti, puoi studiarti gli angoli, roba del genere, che aiutano quell'occhio, diciamo è una lente di ingrandimento, però la prima cosa è l'occhio dell'atleta e dell'allenatore. Ancora mi vedo come atleta. Ma gli anni passano. Lo so. Veniamo tra qualche anno dove io faccio l'allenatore e vedo se riesco a fare qualche risultato. Guarda, Chiara, io questo me lo segno. Ci vediamo nel 2026 con Chiara Bazzoni. Ho dato ancora 10 anni. Va benissimo, anche troppo. No, infatti non vorrei che... È suo, perché lui... È la mia figlia. No, il problema è suo, perché lui ha diversi anni più di me, tipo 20-30, quindi tra minimo 10 anni allenarlo. Però li porta bene, Molto bene, se ho 20 anni più di lei. Beh, ma scusa, se lei ha 18 anni, lui ha 38 anni. I conti tornano. Vuoi fare una domanda a te? No, quelle serie le hai già fatte tutte. E allora, abbiamo detto 2 Olimpiadi, di cui una corsa, ormai questo sono preciso, e poi mondiali, 4 mondiali? No, quanti? Ho fatto 3 mondiali outdoor e 1 indoor. Perché cioè, pioveva. Han chiuso. D'inverno gareggiamo al coperto ed estate fuori. Tra l'altro avete molte manifestazioni, molti eventi importanti, appunto fra outdoor, indoor, olimpiadi, eccetera. A parte tutto, cioè, gestirsi deve essere realmente complicato. Devono essere programmati, il programma parte da inizio anno, se non da anni prima. E poi ci sono più programmi, il tipo di programmazione che segue Alessandro e seguo con lui ti permette di avere più punte durante l'anno, quindi questo mi affascina. Io dopo aver fatto una corsa 2 anni devo stare fermo almeno, quindi avere più punte nello stesso anno è roba da fantascienza veramente. Io ancora non ho riniziato dalla corsa che ho fatto. Sì, ho fatto i giochi della gioventù recuperando in terza media e ancora so fermo. Era l'83, però piano piano. No, che 83? Prima correva Mennea, un grandissimo Mennea. E hai fatto, ora stai facendo 400 ormai, diciamo, da tanti anni. Hai iniziato con un'altra specialità oppure? Ho iniziato con gli ostacoli. Dura come il legno. Chiappavo negli ostacoli, quindi poi li saltavo troppo invece che passarli, perdevo tempo e quindi ho cambiato specialità. E il salto in alto non era più indicato in quel caso? No, non l'ho mai provato. E sempre i 400? Sono passata i 200 metri e poi un anno dopo un infortunio, siccome gli allenamenti devono essere troppo intensi, sono passata ai 400. Senti, siccome io mi diletto in uno sport di cui ora non menzioneremo e in modo vergognoso, e come fai, una domanda che mi interessa a me, il riscaldamento quanto dura, in che consiste, lo stretching fa bene oppure no? Allora, a lei io lo continuo a far perché ormai è... Vabbè, anche una certa età. No, però per quello che faccio fare io, lo stretching lo faccio fare a fine allenamento, non prima. Ah, ecco. Perché, allora, ora dico una cosa seria, l'unica della serata, poi smetto. Bravo. In teoria lo stretching riporta la muscolatura al momento di partenza, e quindi farlo nel riscaldamento non... Avresti buttato via il riscaldamento. Il riscaldamento. Meno male, va. Io non faccio nemmeno veramente il riscaldamento, quindi voglio dire... Pum! Per non rischiare proprio. Continuate che devo fare una cosa tecnica. Ah, sì, ecco. Che... Quindi questo riscaldamento, ecco, in queste stagioni, no, dove chiaramente la temperatura si abbassa, il riscaldamento è più impegnativo, ci vuole di più o no? Sì, no. Ci vuole un po' più di tempo. Quello ovviamente quando sono 30 gradi la muscolatura entra in efficienza prima di quando sono 10. Però ecco, anche di questi periodi cerchiamo di sfruttare le ore più calde, ci alleniamo sempre all'ora di pranzo, stiamo sempre con il meteo.it o 3B Meteo, queste cose qui, a vedere i giorni più caldi, gli orari più caldi, per appunto allenarsi. Vi adeguate anche sull'ambiente circostante per avere le migliori condizioni. Certo, cerchiamo di sfruttare le cose al meglio. Questo perché in Italia purtroppo siamo atleti professionisti, ma non siamo professionisti. Ok, è tutto il contorno che non vi considera tale. Cioè no, diciamo che la vita è da professionisti, ma non viene riconosciuto dal punto di vista anche retributivo e quant'altro, immagino. Sì, no, ma oltre a quello, gli allenatori non sono allenatori professionisti, devono fare un altro lavoro e di conseguenza non possono dedicarti tutto il tempo, comunque allenarti nel momento migliore. Non abbiamo strutture che possono competere con gli altri paesi e via discorrendo. E nonostante tutto, peccato, riusciamo ad avere, a sfornare, esatto, le chiare bazzoni, certi risultati. Voglio dire, tutti a divertirsi. Ma infatti, allora, il paese del ben godi, Chiara. Allora, siamo arrivati alla fine. Saluto Chiara. No, sa Chiara sei te. No, ho visto un sacco di nomi. No, Simone, Elena, eccetera eccetera, grazie. E il messaggio, siamo arrivati alla fine, qual è il messaggio? Il messaggio è che ci siamo dati appuntamento tra 10 anni per Chiara, vedere chi allena Chiara, esatto, molto prima, per auspicabili nuovi successi. Ah, tra l'altro, sì, guarda, ti devo dire questo: 2 anni fa è venuto Luca Vanni, tennista, era 300 al mondo quando è venuto da noi, dopo 3 mesi era 100 al mondo. Quindi Chiara, fai te. No, sì, toccati ovunque, però sappi che normalmente, insomma, chi passa di qui dopo ha dei picchi altissimi, quindi io non ti dico che ti saluta, nonostante l'allenatore, oddio no, forse nel tuo caso è impossibile. Ci vuole un miracolo. Come se non ti avessi detto niente, ora facciamo finta di niente. E l'appuntamento è con Chiara comunque, che tornerà a trovarci appunto fra un annetto, dicendoci tutto quello che ha fatto di buono. Sì, lo prendiamo come un impegno, come una promessa. La ringraziamo, so, prima cosa, per aver tenuto il cappello finora, che fa un caldo. Ha avuto una costanza. Chiedi Alessandro, grazie. Grazie di essere soprattutto stato perché con noi. Sopporti Simone. Che non è poco, e noi lo sappiamo in prima persona. Però te lo fai senza nessun motivo. Io invece, no, ma anche noi non di lucro, ma cioè, è un volontario. Chiara, i prossimi appuntamenti? Inizia a gareggiare il 7-8 gennaio e poi ci saranno i campionati italiani a fine febbraio. E... Che palle sti campionati. Veramente, non fa il veglione di San Silvestro, cioè, no, perché il 7 c'ho da correre. Sì. Allora, grazie Chiara, grazie davvero. Buon Natale a tutti, buone feste. Grazie soprattutto per averci sopportato, che non è sempre facile. Grazie Alessandro. Buone feste, grazie a tutti, ciao. Grazie. A Simone. Ma no. Simone era una domanda, no, grazie a Simone, no, assolutamente. Allora amici, non andate via, ricordatevi che venerdì prossimo non saremo in onda, che dovete... A meno che non ci siano delle sorprese che in settimana potrebbero scaturire, ma non lo sappiamo, ma sicuramente no. Sì, ma infatti se condividete... te ci dici che vai via di sicuro, ecco, noi condividiamo e tanto amore. Condividete questo filmato, lo potrete rivedere nei prossimi giorni, potrete ascoltarci in podcast. C'è un altro messaggio, aspetta che ve lo leggo. Paolo dice sempre da Brescia, brava, forza Chiara, e buon Natale Shabalon Simone. Grazie ragazzi, faccio la sigla finale. Se tutto va come deve andare, ci vediamo nel 2017. Chiara, è stato un onore per noi, grazie ancora Alessandro. Sigla. Avete ascoltato? ascoltato e visto Shabalon, un programma di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Aria. Erano in studio con noi Chiara. Ara. E Alessandro. Andro. Forse venerdì prossimo non ci vediamo. Amo. Ma ci vedremo sicuramente l'anno prossimo. Ossimo. Il 2017. Sette. Vabbè, se ne vuoi fare tutte le fai no, tutte. Perché veniva tette.